Abbiamo lanciato oggi, abbiamo appena presentato il primo rapporto sulle condizioni di detenzione in Emilia-Romagna, che per noi è un progetto che inseguivamo da un po' e che quest'anno siamo finalmente riusciti a realizzare. L'idea era quella di offrire, come sapete, come Antigone abbiamo un osservatorio sulle condizioni di detenzione a livello nazionale. La nostra idea era quella di cercare di offrire anche a livello regionale quelle che possono essere le problematicità, no, di critici, ma anche punti di forza del sistema carcerario a livello regionale, e da qui l'idea del rapporto. Il rapporto abbiamo deciso di focalizzarlo non tanto sulla storia di ogni istituto, ma piuttosto di guardare alla detenzione a livello regionale da un punto di vista trasversale in base a delle tematiche che abbiamo scelto e che ogni anno andremo a privilegiare rispetto ad altre. Quindi quest'anno, diciamo, anche perché è il primo rapporto, abbiamo deciso di occuparci ad esempio della parte architettonica delle diverse strutture, perché ad esempio potrebbe essere una parte, questa è curata da Maria Chiara Gentile, una parte che magari viene anche sottovalutata, ma in realtà come un istituto viene gestito, i punti di forza, le criticità, molto dipende dalla struttura stessa, dal fatto se sia in città o se sia fuori città, da come è strutturato, se ci sono più padiglioni o meno, se l'edificio è vecchio oppure è di nuova costruzione, se era un carcere ad esempio costruito negli anni 80 come carceri di massima sicurezza in quella stagione là. Antigone è un osservatore privilegiato perché è comunque assolutamente indipendente, ha degli studi che conduce in modo totalmente autonomo. C'è anche da dire che l'Italia ha subito delle infrazioni perché non rispetta i limiti minimi di grandezza delle celle. Cosa c'è da dire in merito sui carceri dell'Emilia-Romagna? Ah, questo è un grande punto, nel senso, di riferimento era la sentenza Torreggiani, ovviamente, che ha condannato l'Italia per il sovraffollamento, per lo spazio minore a 3 metri quadrati dato a ogni detenuto. Per quanto riguarda la situazione in Emilia-Romagna, abbiamo comunque una situazione di sovraffollamento intorno al 120-130%. Abbiamo, dal nostro rapporto emerge che ci sono più di 800 detenuti oltre la capienza regolamentare, quindi questo ovviamente implica una sorta di sovraffollamento, ma soprattutto quello che anche noi vogliamo guardare oltre al sovraffollamento, questo è un punto che ad esempio il vice Sfraccia nell'introduzione tira fuori e mette a fuoco, è non tanto numericamente il sovraffollamento, ma proprio come si vive all'interno degli istituti, e questo è quello che noi cerchiamo di fare con la nostra attività di osservazione: come si vive all'interno degli istituti, qual è la situazione della sanità, qual è la presenza delle attività, quanti educatori ci sono, quanto gli educatori riescono a vedere i detenuti, come si vive, come vive ad esempio anche le detenute, la detenzione femminile da parte delle detenute, che è un altro tema molto, molto importante che lo stesso affrontiamo. Affrontiamo anche in particolare le questioni connesse diciamo il lascito della sentenza Torreggiani, che è l'introduzione della sorveglianza dinamica e delle celle aperte, no? Che hanno modificato in maniera profonda la quotidianità detentiva all'interno delle carceri. Questo è un capitolo di cui ci occupiamo in particolare io insieme a Valerio Pascali. Naturalmente il diritto alla salute, il diritto alla dignità, il diritto al lavoro sono diritti inviolabili voluti dettati dalla Costituzione, ma è necessario che anche in carcere questi diritti vengano applicati. Diritto alla salute, diritto all'istruzione. Anche sul diritto alla salute abbiamo dedicato una parte ovviamente del rapporto, e anche oggi per la presentazione del primo rapporto abbiamo invitato il dottor Vezzonis, con cui abbiamo già collaborato in passato e che è il coordinatore dell'area sanitaria del carcere di Reggio Emilia in particolare. E rispetto alla salute in carcere ci sono tutta una serie di questioni da andare ad indagare, ad esempio se ci sono specialisti che entrano all'interno delle carceri. Per la detenzione femminile c'è la ginecologa oppure c'è il dentista c'è un grande fabbisogno di questo tipo di specialisti. C'è la possibilità di fare visite fuori dal carcere, c'è la possibilità delle traduzioni, ovvero l'accompagnamento della polizia penitenziaria del detenuto al di fuori del carcere per poter fare delle visite visite fuori. Tutta una serie di questioni che hanno a che fare appunto con la salute, che sono questioni pratiche, no? Diciamo, la trasmissione tra quello che la legge dice e poi dopo il diritto di fatto, no? Che è un po' quello che indaghiamo. Abbiamo parlato di primo rapporto perché sono emersi tanti spunti di ragionamento, tanti punti da approfondire, quindi presto ci sarà ancora tanto lavoro da svolgere come Antigone. Certo, noi come progetti ne abbiamo tanti, come abbiamo detto anche oggi alla presentazione, possiamo contare su un gruppo comunque coeso e forte, numeroso di militanti, non solo osservatori, ma anche osservatori paralleli, no? Che guardano quindi alla situazione delle carceri, guardano come se ne parla, guardano la situazione da fuori. E questo ci aiuta, ci dà forze, anche forze giovani che sono entrate nel corso degli ultimi 2 anni, dell'ultimo anno, e stiamo lavorando molto bene come gruppo. Questo rapporto l'abbiamo chiamato non a caso primo rapporto, perché l'intenzione è proprio quella di uscire ogni anno con dei rapporti regionali che possono focalizzarsi, come dicevo, su diverse tematiche. E oltre a questo abbiamo invece il nostro prossimo progetto in cantiere, è una guida per l'uscita dei detenuti dal carcere, in particolare con focus sulla Dozza, e questo è il nostro, diciamo, prossimo progetto a cui stiamo lavorando.